9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un 20 settembre di quelli naturalmente che bisognerà considerare con grande attenzione per come evolverà il mercato, per come evolveranno gli spread tra i BTP e i Bund, per come la vicenda dell'eurodebito prenderà una piega ancora più accelerata dopo questo downgrading che tocca non da Moody's come ce lo aspettavamo, ma da Standard & Poor's la solvibilità italiana, e dopo che tutti gli sforzi per tentare di far quadrare le condizioni per trasferire gli 8 quasi 9 miliardi di euro dell'ultimo round deciso di aiuti alla Grecia a fine di luglio ancora non trova alcun esito dopo l'insoddisfacente andamento dell'Ecofin polacco, dopo le riunioni della Troica che giorno dopo giorno, più volte al giorno, si confrontano con il governo greco intorno alle condizioni aggiuntive poste dai paesi euromembri affinché il governo greco faccia ulteriori passi in avanti in manovre che naturalmente hanno la conseguenza sì di rimettere apparentemente lì nei conti di quel paese, ma lo precipitano anche in una condizione di ancora maggiore crisi. Ieri siamo arrivati alla richiesta nei confronti della Grecia di 150.000 dipendenti pubblici da licenziare. Il meccanismo è di un parcheggio di 12 mesi al 60% dello stipendio, dopodiché le condizioni previste erano che per chi non ha trovato un posto di lavoro non c'era più integrazione al reddito. Ma 150.000 dipendenti pubblici per un paese che ha 12 milioni di abitanti, rispetto a noi, fatevi conto. È come se ci si chiedesse sul totale dei nostri 3.800.000 dipendenti pubblici di licenziarne con un'analoga procedura, 12 mesi di cassa integrazione e poi a casa, più o meno 650-700.000. Insomma, immaginate che cosa potrebbe crearsi nel nostro paese se qualcosa di simile ci venisse richiesto. Naturalmente non si tratta di fare gli allarmisti, ma si tratta di essere realisti, e questa è la mia introduzione per presentarvi gli ospiti, dopo che per settimane tutte le volte che mi hanno invitato in televisione, in telegiornali o parlavo in trasmissioni, ricevo immediatamente telefonate dagli amici politici dicendo: la devi piantare di essere troppo allarmista, la devi piantare, questa è una manovra di Confindustria contro il governo, non ti credevamo allineato con i poteri forti, ma come, traditore di qua, traditore di là. Il problema non è, ripeto, quello di guardare la realtà con occhi della politica, il problema è, per chi fa il mio mestiere e ha studiato qualche cosa di mercati, di tentare di innanzitutto capire i mercati, che in questo periodo non è molto facile per la volatilità e per le tendenze che vi prendono piede. Ma dopo aver capito che da due anni, sono quasi due anni da che abbiamo appreso dalle lezioni greche vastità e proporzioni del problema dell'eurodebito, dopo che da due anni vediamo articolarsi sul mercato un arco di posizioni che vede l'Europa divisa tra i paesi virtuosi che hanno sostituito al giudizio dei mercati, il giudizio dei mercati ogni giorno al vecchio giudizio politico che si era rivelato inefficiente perché discrezionale sui paesi non virtuosi, e da due anni vediamo l'effetto che questo ha articolato nel riallineare con la forza della pressione dei mercati e dei downgrading le posizioni europee intorno a più virtù di bilancio, e beh, illudersi che questo non dovesse riservare anche all'Italia il suo capitolo, secondo me era un errore. Per questo io dico che la politica italiana deve comprendere che nel giro di pochi giorni, magari di poche ore, dopo un ulteriore downgrading si può arrivare a quote di spread tale per cui la sostenibilità della riserva di capitale a breve delle banche a quel punto non è più soddisfatta, e nel giro di un giorno o due giorni può avvenire l'impensabile se non si adottano misure ulteriormente aggiuntive. Allora, cerchiamo di capire alcuni di questi interrogativi. Primo, cosa aspetta l'Italia adesso? Secondo, cercare di capire meglio la Grecia, in che condizioni la stiamo spingendo, ma soprattutto se poi questo piano di aiuti parte o se parola dopo parola dei membri del governo tedesco in realtà assisteremo a un tentativo di semi-default pilotato sulla base del presupposto che un'economia che pesa meno del 3% di quella del totale dell'euroarea si può semi-pilotare al default, cioè a perdite non solo di interessi ma di capitale da parte dei prestatori, per essere chiari e precisi, vuol dire questo semi-default, senza per questo far saltare l'euro. Cerchiamo di interrogarci anche su quello che capita ai paesi invece virtuosi dell'euroarea, perché dalla scorsa settimana la novità realtà è che non sono tanto saliti gli spread. La settimana scorsa la borsa aveva segno più dei paesi euro deboli, ma improvvisamente hanno iniziato a salire anche i rendimenti dei titoli tedeschi stessi. A quel punto il mercato ha iniziato a capire che davvero forse il fuoco nella Santa Barbara, e la Santa Barbara può a quel punto esplodere. Allora, sulla base di queste domande, i nostri ospiti. Abbiamo con noi il professor Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi e scrive anche per il Sole 24 Ore. Io lo ringrazio. Buongiorno, professor Perotti. Buongiorno. Abbiamo con noi Dimitri Deliolanes, corrispondente della TV pubblica greca, che in questo periodo è costretto a un tour de force, perché praticamente tutte le trasmissioni gli chiedono di spiegarci un pochino quello che capita nel suo paese. Grazie e buongiorno Dimitri. Buongiorno a voi. Allora, io comincerei da Dimitri. Quanto è avvenuto ieri, un ulteriore incontro vuoto della Troica, fa pensare che la condizione a questo punto per il governo Papandreou è avviata verso quale passo? Arrivano gli aiuti, secondo te? Il governo del PASOK è in condizioni di assumere decisioni come quelle che gli sono state ulteriormente richieste, oppure si va a un semi-default pilotato, secondo te? Ma io sul semi default pilotato ne parlavamo ieri sera anche in un'altra trasmissione con il professor Perotti, insomma, a me sembra una operazione forse economicamente brillante, ma politicamente estremamente rischiosa. Siamo in un'unione politica, siamo in un'Unione Europea, in cui il basso di vita più importante è stato all'euro, quindi insomma sottolineerei gli aspetti più preoccupanti dal punto di vista politico. Per quel che riguarda le trattative, il ministro delle finanze greco Venizelos con la Troica, che continueranno nel pomeriggio, io francamente devo dire, insomma, ho l'impressione che da parte della Troica ci sia un atteggiamento poco razionale, un pochettino impanicato. C'è stato un accordo con luglio, c'è una roadmap per assistere la Grecia ha assunto degli impegni, li sta portando avanti in maniera, secondo me, coerente, malgrado le obiezioni di gran parte dell'opinione pubblica e della maggioranza del governo, del Parlamento, eccetera, eccetera. Comunque le cose vanno avanti. La richiesta che a me sembra, là dove si blocca, la Troica è delusa e quindi blocca questa ulteriore tranche necessaria per la Grecia, è sul fatto di fare cassa immediatamente. Fate subito cassa, fatto in maniera di coprire immediatamente almeno una parte del debito per poter pagare, eccetera, eccetera. E con queste misure, però, come la tassa, l'ulteriore tassa sugli immobili che ha posto due settimane fa il governo e che veramente ha accettato l'opinione pubblica nel panico, perché francamente chiede di pagare a della gente che ha disoccupati, ha dei sottoccupati, a dei pensionati che già sono stati ampiamente tartassati, mi sembra un po' fuori, assolutamente irrealistico. Infatti sarà una tassa che probabilmente pagheranno pochi, ecco. Per cui bisogna far capire a questi signori che se vogliono effettivamente che si eviti le conseguenze gravi dal punto di vista politico, bisogna lasciare che la Grecia porti avanti il suo progetto concordato con i suoi creditori, in condizioni però un pochettino più tranquille, non sotto queste pressioni assolutamente asfissianti per fare cassa immediatamente. Allora, siccome la qualità del collegamento tende a essere molto stentata, molti ascoltatori hanno giustamente fatto notare che bisogna tentare di far capire di più, è in treno Dimitri. Professor Perotti, abbiamo per diciamo un mesetto, da metà agosto, da quando la BCE ci ha chiesto imperativamente, in cambio del sostegno all'acquisto dei titoli italiani, nuova manovra, ci siamo per così dire illusi che i saldi scritti nella manovra aggiuntiva alla fine fossero ciò che ci era stato chiesto per rassicurare i mercati, e in cambio qualcuno ha immaginato che la BCE potesse continuare nel suo salvagente degli acquisti. Ora gli sviluppi sia sul caso greco sia sul downgrading italiano comprovano che non è così, come non lo comprovano anche le dichiarazioni, per quanto confuse, ma insomma aperte in una forbice molto evidente della politica tedesca, che inizia a non escludere più alcuna opinione. Ecco, dal punto di vista della condizione italiana, secondo lei, dopo il downgrading a sorpresa di Standard & Poor's, le condizioni che si aprono quali sono? Ma io non credo onestamente che il downgrading di per sé faccia una grande differenza. Quello di Standard & Poor's non era atteso adesso, ma era largamente atteso quello di Moody's, che avverrà probabilmente fra 10 giorni o 15. Il problema dell'Italia è che si erano riposte delle speranze eccessive, a dir poco, su uno strumento totalmente spuntato, che era gli acquisti da parte della BCE. Il motivo per cui è totalmente spuntato è il seguente, è una questione semplicemente di numeri, di aridi numeri, se l'Italia, non è questo il caso ancora, ma lo scenario che tutti paventano è uno scenario in cui l'Italia sia nella condizione in cui era la Grecia 2 anni fa, a quel punto ci vorrebbe una potenza di fuoco, non i 100 miliardi che sono stati messi insieme a fatica per la Grecia un anno fa e poi altri 100 miliardi il 21 luglio, ma ci vorrebbe tra i 1.500 e i 2.000 miliardi. Questo lo si può fare attraverso acquisti da parte della BCE, lo si può fare attraverso un Eurobond, che peraltro non avverrà mai per motivi politici, fortunatamente, o lo si può fare attraverso un potenziamento del fondo salva stati. Sono tutte, da un certo punto di vista, misure equivalenti, e sono equivalenti perché implicano che la Germania, l'Olanda, la Finlandia, i paesi a AAA ci mettono i soldi, quindi essenzialmente la Germania 1.000 miliardi, 1.500 miliardi per salvare l'Italia non li metterà mai, e questo secondo me è una cosa totalmente comprensibile. Noi italiani avremmo mai messo i nostri 1.000 miliardi per salvare un altro paese, quando l'Argentina, che ha metà degli abitanti di origine italiana, era nei guai nel 2001, noi abbiamo mai messo 1 miliardo per aiutare l'Argentina, anzi siamo andati lì e gli abbiamo chiesto di pagare tutti i bond che avevamo messi fino all'ultimo peso. Quindi è totalmente comprensibile politicamente, ma oserei dire una parola anche forse fuori luogo, moralmente, che la Germania non ripaghi non voglia pagare i 1.500 miliardi necessari per salvare l'Italia. E quindi 15 miliardi di intervento da parte della BCE non servono a niente, servono giusto per calmare i mercati per qualche ora, ma se li confronta ai 2.000 miliardi di debito pubblico italiano sono niente. Quindi avevamo mai riposto le nostre speranze fin dall'inizio. Allora, perde più dell'1% in apertura la borsa, si sfilano i 400 punti, vi daremo naturalmente di volta in volta gli aggiornamenti a questi microfoni. Un'altra delle eurosperanze, per così dire, classiche del dibattito italiano, lei aveva dato il merito, professor Perotti, di avere scritto da solo e con altri colleghi anche in maniera contraria per avvisare che si trattava appunto di un mito malfondato, era che la soluzione potesse venire dagli eurobond, cioè soluzione degli acquisti a breve da parte della BCE come tampone, ma dietro l'angolo l'inevitabilità per i tedeschi di capire che il passo oramai verso un debito pubblico comune e verso l'emissione di titoli euro garantiti fosse inevitabile. Perché, spieghiamolo ancora una volta, questo si è rivelato ed è a tutt'oggi ancora un mito, una non soluzione a portata di mano? Perché gli Eurobond sono un titolo di debito che hanno la caratteristica che tutti i paesi emittenti sono responsabili per il pagamento individualmente in solido, cioè se l'Italia, la Spagna, la Grecia ovviamente, il Portogallo e l'Irlanda non possono, si rifiutano di pagare la loro parte obbligazione, ne è responsabile la Germania. Quindi se si emettono 1.000 miliardi di Eurobond è possibile che la Germania si ritrovi a essere responsabile per tutti i 1.000 miliardi, non solo per la sua quota iniziale, perché sono responsabili in solido. Quindi ovviamente, così come la Grecia si è trovata in difficoltà a pagare il proprio debito, a maggior ragione avrebbe difficoltà e si rifiuterebbe inevitabilmente di pagare la sua quota di Eurobond. Sapendo questo, è chiaro che la Germania non andrà mai a mettersi nella condizione di doversi assumere l'intero debito di tutta l'Europa del Sud. Non solo gli Eurobond sono una pessima idea da questo punto di vista, ma sono una pessima idea due volte, perché gli Eurobond non specificano come debba venire spesa i soldi raccolti. Cioè, se io raccolgo 1.000 miliardi con gli Eurobond non specificano se debbano essere usati per costruire il ponte di Messina, 800 miliardi in Italia e 200 in Portogallo, oppure 800 in Germania, 100 in Irlanda e 100 in Grecia. Per cui la Germania rischia due volte, rischia di doversi accollare tutto il debito di tutta l'Europa del Sud e anche che tutti i soldi raccolti vengano spesi tutti nell'Europa del Sud. Quindi ha potenzialmente una perdita di 4.000 miliardi se vengono raccolti 2.000 miliardi di eurobond. Io mi chiedo come delle persone ragionevoli possano pensare che un paese ragionevole, dei politici ragionevoli, dei cittadini ragionevoli, come sono tutto sommato la maggior parte dei tedeschi, possono mai pensare di accollarsi in una cosa del genere. C'è chi ha proposto invece in queste convulse settimane, man mano che diventava sempre più evidente quello che lei ancora oggi ci ha ripetuto, ma ha avuto, ripeto, il merito di scriverlo ben prima di altri, che hanno proposto una via intermedia, per così dire, cioè la costituzione presso l'FSF di uno strumento che da una parte tenga conto dei pesi nazionali, del diverso PIL dei diversi paesi dell'euroarea, e dall'altra sia qualcosa che non arriva fino al finanziamento collettivo, cioè all'unione dei trasferimenti che giustamente gli elettori temono e che fanno bene a temere, come ci ha appena spiegato. Una sorta, in altre parole, di fondo in cambio di collaterali nelle quali le quote dei paesi siano analoghe, uguali a quelle del proprio contributo al PIL dell'euroarea, e quindi in cambio di garanzie e collaterali la costituzione di un fondo di questo tipo costituirebbe una specie di cuscinetto di emergenza. È possibile immaginare formule di questo tipo secondo lei? Sì, dipende tutto dalla qualità del collaterale, ovviamente. Se parliamo della Grecia, purtroppo per la Grecia, se avesse il collaterale credibile per prendere prestito, non sarebbe nella condizione in cui è. Quindi chiaramente la Grecia non ha il collaterale sufficiente per fare un'operazione di questo genere. Ovviamente dipende da cosa si definisce per collaterale. Qualcuno ha ipotizzato che la Grecia dovrebbe mettere come collaterale il Partenone. Se cominciamo a parlare del Partenone e poi delle isole di Santorini e di Milos eccetera, allora dipende da quanto si valutano i terreni in Grecia, però può darsi che ci arrivi, ma non credo che sono collaterali molto liquidi, non credo che nessuno si voglia prendere un'isola greca come collaterale, e non credo ovviamente che la Grecia lo voglia mettere come collaterale. Quindi la Grecia di fatto non ha il collaterale per fare una cosa del genere, l'Italia neanche, diciamo, ipotizziamo il collaterale necessario per coprire il 100% dei debiti debba essere 400-500 miliardi per la quota italiana, dove si trova un collaterale credibile di 500 miliardi per l'Italia. Ma esiste secondo lei la possibilità di guidare una procedura di semi-default senza compromissione immediata dell'euro nel caso della Grecia, e qual è la soglia oltre la quale invece una procedura di quel tipo fa saltare l'euro? È chiaro a tutti qual è la differenza di peso tra l'Italia e la Grecia in termini di PIL e di scambi commerciali, di asset detenuti lordi e netti dai tedeschi nel nostro paese rispetto alla Grecia, ma qual è la soglia nella quale si può far entrare il fuoco nella Santa Barbara senza che esploda tutto? Diciamo, ci sono degli aspetti legali sui trattati che sono molto controversi e che non sono la mia specialità, per cui non voglio entrare, so solo che persone competenti in materia hanno opinioni diverse su questo, se sia fattibile, come, quando, eccetera. Però diciamo, da un punto di vista economico è chiaro che non c'è niente che impedisca alla Grecia di uscire dall'euro e degli altri paesi di continuare senza Grecia. Insomma, con tutto rispetto per la Grecia, purtroppo per lei il mondo continua anche e l'euro continua anche senza la Grecia. La Grecia un altro paese che faccia default, è molto difficile fare default senza anche uscire dall'euro, perché l'esperienza dei paesi che hanno fatto default in passato insegna che intanto entrano in recessione, è molto difficile evitare una recessione dopo aver fatto default. Per uscire dalla recessione il segreto quasi sempre è stato deprezzare il tasso di cambio, rendersi più competitivi e quindi cominciare a uscire dalla recessione aumentando le esportazioni. Quindi per farlo bisogna uscire dall'euro per poter deprezzare il tasso di cambio. Quindi ho l'impressione che fare default senza uscire dall'euro per la Grecia sarebbe molto molto difficile. Ancora una domanda, sono un po' ma tentiamo di tenerci il didascalico immaginando che chi è a casa magari abbia le idee un po' confuse. Molti in realtà in Italia rimpiangono l'epoca delle svalutazioni facili. In queste settimane è stato un fiorire di report riservati per le fasce alte della clientela di grandi banche d'affari internazionali che hanno iniziato a fare i conti di che cosa vuol dire in caso di rottura dell'euro l'uscita per paesi di diversa taglia dall'euro stesso, e per esempio UBS in un report che era del 6 settembre iniziava a quantificare per un paese core, cioè per un paese come l'Italia, l'effetto di questo fenomeno che lei ha appena descritto, l'impossibilità di uscire senza cadere in recessione. recessione, come la perdita, trasvalutazione monetarie, evaporazioni per così dire di valore reale, deprezzamento per crollo dei mercati, dei titoli quotati sui mercati, un tra i 10-12 mila euro a cranio per ogni abitante, compresi gli infanti, cioè una cifra più o meno prossima a un 40% di PIL nominale come effetto per il solo primo anno, con 3-4 anni a seguire con percentuali più basse, ma fino a un ambito del 70-80% del PIL nominale in 4-5 anni. Ecco, questo genere di ipotesi e di simulazioni, di stime di deprezzamento in caso di uscita, che forse sono la vera risposta a chi rimpiange con nostalgia le svalutazioni facili, ci devono far ritenere che e dobbiamo a tutti i costi restare nell'euro come Italia, oppure sono degli esercizi di stima che non la convincono? Dunque, non conosco questi esercizi, ma un esercizio che dica che qualsiasi cosa venga fatta oggi porta a una perdita del 40% del PIL significa peggio della grande depressione americana, mi sembra poco credibile. Però è vero che uscire dall'euro ha i suoi costi, in dubbio. Il costo principale, che secondo me è difficilmente quantificabile, è semplicemente, per chi se lo ricorda, è andare indietro agli anni Ottanta, cioè pensare a vivere con l'inflazione al 20% e con tutto quello che ne consegue. Quello che ne consegue è anche la politica fiscale che era impazzita, perché ricordiamoci che i nostri problemi sono nati allora, quando si pensava di poter dare tutto a tutti e gratis, e per far questo si è accumulato un debito pubblico enorme. Quindi il grande vantaggio dell'euro, inutile che ce lo nascondiamo, è che ha dato disciplina alla politica monetaria, fortunatamente, portandola a Francoforte e togliendola a Roma, e all'Italia, non Roma in quanto Roma, diciamo, togliendola all'Italia, ha dato disciplina anche alla politica fiscale, un po' di disciplina, un po' di più che negli anni Ottanta, purtroppo non abbastanza, ma un po' di più che negli anni Ottanta. Quindi uscire dall'euro avrebbe questi costi enormi, e ovviamente avrebbe il vantaggio che inizialmente saremmo più competitivi, eccetera eccetera, ma insomma è un passo che non farei a cuor leggero. La nostalgia degli anni Ottanta secondo me è molto molto pericolosa. Dobbiamo ricordarci, insomma, i ministri delle finanze che ci hanno guidato negli anni Ottanta e i ministri delle finanze che abbiamo avuto negli ultimi anni, con tutte le critiche che si possono fare, però non sono la stessa cosa. Io condivido in pieno questo giudizio, non sono tra i nostalgici, viva la disciplina, non so quella della politica monetaria, ma avremo bisogno di più disciplina nella politica fiscale. Oggi il professor Forti sul Sole fa il conto di quello che chiama il sacrificio intero lordo degli italiani, sono 500 miliardi di euro di tasse in più pagate negli anni, eccetera, e non sono bastate, e forse l'equilibrio è da perseguire con meno spese e meno tasse, non solo per via fiscale come fanno ancora le manovre di questo governo, ma questo è un altro paio di maniche. Intanto pubblicità. Eccoci tornati in studio dopo il downgrading a sorpresa che Standard & Poor's ha riservato al debito pubblico italiano, in attesa quello di Moody's, in attesa di vedere come i mercati reagiscono allo stato delle trattative della Troica rispetto alla Grecia da una parte, a che cosa succede da oggi in avanti sugli spread BTP Bund italiani. Professor Perotti, un'altra domanda che viene da un'altra simulazione che abbiamo visto girare sui nostri tavoli in questi giorni, questa volta di Credit Suisse. Credit Suisse, di fronte all'ipotesi che convenisse o meno alla Germania, quindi alla Germania e ai suoi alleati, alla Finlandia, all'Olanda, insomma al paese, al nucleo di paesi che in questi 22 mesi hanno costituito il fronte di chi ha sostituito il giudizio discrezionale politico che non funzionava sul patto di Maastricht, lo hanno sostituito con quello invece dei mercati, ora per ora, giorno per giorno. Ecco, nel fare il conto della convenienza, Credit Suisse proponeva un altro criterio, e cioè quello di valutare gli asset e le liabilities lorde e nette detenute da ciascuno dei grandi paesi virtuosi nel resto dell'euroarea e nei paesi europeriferici, quelli più a rischio, e da questo conto approssimativo, spannometrico, perché fatto su contabilità pubblica ufficiale, non proprio tedesca, non proprio recentissima, ma insomma di un anno e mezzo fa, si scopriva che la Germania in realtà nella sua posizione netta tra asset e liabilities ha quasi mezzo, quasi il 50% del proprio PIL per via della bilancia di pagamenti attivo in questi anni, ha netto che detiene nei paesi dell'euroarea, e molto più della metà, quasi il 30% del suo PIL, proprio esattamente nei paesi che rischiano da questo punto di vista di formare una specie di girone B, il girone neolatino, come lo vogliamo chiamare, se non tornano ciascuno a valute nazionali in caso di rottura dell'euro, e cioè Spagna, Italia, Grecia. E da questo punto di vista i tedeschi possono permettersi, Credit Suisse diceva di no, ma possono permettersi non considerare troppo facilmente l'evaporazione di valore che un'esplosione dell'euro avrebbe per asset così tanto rilevanti in cui hanno investito in questi anni, e che insieme al flusso commerciale, l'aumento del commercio intraeuropeo, costituiscono i due punti di fondo che hanno accresciuto l'economia tedesca e quindi il vantaggio loro dell'euro, oppure dal loro punto di vista, secondo lei, questo aspetto è secondario? No, non è secondario sicuramente, però siamo sempre lì, cioè, mettiamoci nei panni di un politico tedesco o di dell'elettore medio tedesco. Da un lato c'è questo, cioè c'è il fatto che se noi non aiutiamo la Grecia, ripeto, la Grecia non è il problema, perché la Grecia è il 3% del PIL europeo, o l'Italia se si dovessero creare le condizioni, questi, male che vada, nelle peggiori ipotesi escono dall'euro, ci rubano un po' di esportazioni, e poi alcuni degli asset che avevamo investito in questi paesi si sbalzano, perché questi sbalzano. Ammesso, poi qui sono denominati in euro questi asset, bisogna vedere chi fa default, quanto fa default, ma insomma presumibilmente la Germania ci perderebbe. Questo su un piatto da bilancia. Sull'altro piatto da bilancia bisogna mettere, nel caso della Grecia, 100 miliardi di aiuti, più o meno la quota tedesca, un po' meno. Nel caso dell'Italia nessuno lo sa, ma presumibilmente la quota tedesca sarebbe 600, 700, 800 miliardi, che non necessariamente perderebbero tutti, però c'è il rischio che ne perdano una buona parte. Questo sull'altro piatto della bilancia è un costo immediato e tangibile. Quale politico tedesco e quale elettore tedesco sceglie il primo rispetto al secondo? È molto difficile andare a chiedere a un paese dateci 500 miliardi, sono tanti, cioè 500 miliardi sono il 35% del PIL italiano, sono una enormità di soldi. Chi riesce a chiedere ai propri cittadini dateci 500 miliardi per salvare un paese che dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista del cittadino tedesco, ha vissuto per anni al di sopra le proprie possibilità? Perché questo è sicuramente il caso della Grecia. Nessuno ha obbligato i greci a fare le Olimpiadi, a mandare la gente in pensione a 50 anni. Quindi è molto molto difficile politicamente chiedere a un cittadino dell'Europa del Nord di fare un'operazione di genere. 30% del PIL sono un'enormità, la gente non se ne rende conto, ma sono un'enormità. È facile fare moralismi sui doveri della Germania, di condivisione dei problemi dell'euro, ma il 30% del PIL sono un'enormità di soldi. Gli italiani dovrebbero appunto ricordare, prima di dividersi adesso in tributi, chi pensa che il governo deve restare e chi pensa che il problema sia solo il governo, invece delle cose da fare, dovrebbero ricordare che in ogni caso dal 1996 al 2007 quei 500 miliardi di cui vi parla il professor Perotti, c'è un'enormità, cioè il 35% del PIL italiano, sono in termini di maggiori entrate rispetto alle spese a valori correnti del 2000 esattamente quello che gli italiani hanno già dato a questo paese. 35% di PIL di maggiori entrate rispetto alle spese, ripeto, a valori correnti 2000, e per ritrovarci in queste condizioni. Tanto lo dico per ricordare a chi dice che il problema non è la politica, la speculazione dei mercati, abbiamo fatto il meglio. No, la politica non ha fatto il meglio. Se malgrado abbia cavato tutta questa enormità dalle tasche degli italiani, ci ritroviamo in queste condizioni. Quindi forse chi chiede discontinuità e consapevolezza e credibilità non ha tutti i torti. Dimitri De Lolanes, ma in il tono del dibattito pubblico dei quotidiani greci a stamattina, dopo il quadro che ci hai dato all'inizio della trasmissione, qual è? Lì il partito Nostalgia Dracma ha fatto proseliti, oppure siamo solo alla disperazione della protesta e all'incomprensione totale verso le richieste nuove che vengono dalla Troika? Sì, la seconda cosa sicuramente, non c'è nessuna nostalgia per la dracma. I greci hanno vissuto l'adesione all'euro, prima l'adesione all'Unione Europea, poi l'adesione all'euro, con grande orgoglio e con grande entusiasmo, voglio dire. e non penso che il partito della dracma, io non l'ho visto esprimersi, ma penso che insomma rappresenti una bassissima percentuale della popolazione. Il problema vero è l'opinione pubblica si chiede, ma come? Sono due anni che questi controllano ogni mese ogni nostra mossa, e dopo due anni, anziché stare meglio, stiamo peggio. Beh, in questa ricetta c'è qualcosa che non va. Parlavo prima di questo 21 luglio, che aveva dato un po' di ossigeno, diciamo, un po' di prospettive alla gestione del debito greco. Beh, adesso sembra che il problema, loro dicono che il problema sia la Grecia, ma probabilmente il problema non è la Grecia, il problema sono i parlamenti che devono ratificare questo accordo e i soldi che devono essere investiti in questo accordo. Eh sì, c'è sicuramente tra la confezione tecnica dei round di aiuti e la necessità, sottolineo tre volte, costituzionale addirittura per paesi come la Germania, che hanno adottato il trattato a condizioni che ogni sborso passasse attraverso voti espliciti di chi rappresenta la sovranità popolare in Parlamento, e tra questi due momenti c'è una classica frizione, che è quella frizione dei procedimenti complessi decisionali dell'Europa, procedimenti fatti per gestire già in maniera non sufficientemente adeguata i tempi ordinari, procedimenti che in tempi straordinari, in cui serve efficienza ed efficacia immediata delle misure adottate, naturalmente poi diventano molto molto molto problematici. Iniziamo a sentire un po' di ascoltatori. Michele da Bari, per esempio. Michele, che ne pensa? Salve, buongiorno. Io chiamavo per giusto avere un attimino un momento di approfondimento sui numeri comunicati prima dal professore, un po' per capire. Dal professor Perotti, sì. Sì, esatto. Siccome si parlava della necessità, per eventualmente dovessero peggiorare, diciamo, le nostre condizioni, di 1.000-1.500 miliardi per insomma, salvare l'Italia, un po' comprendere questi numeri, nel senso che il nostro debito pubblico è di 2.000 miliardi più o meno, ma noi abbiamo comunque entrate fiscali complessive che ormai arrivano a sfiorare, cioè superano i 400 miliardi di euro all'anno. Sì. Il nostro debito scadrà non domani, ma è un debito comunque strutturato con delle scadenze insomma abbastanza scalettate nel tempo. Quindi la sua domanda in realtà serve meno. Ok, allora questo lo aggiriamo al professor Perotti, poi al professor Perotti dopo qualche ascoltatore che sentiamo ancora e dopo l'introduzione sulle strade che faremo tra poco, gli diamo la possibilità di rispondere. Sentiamo Ennio che chiama da Roma. Prego Ennio. Buongiorno, senta, io volevo semplicemente dire una cosa, un disegno si inizia dalla testa e non dai piedi, quindi secondo me prima di fare tutte queste cose dovrebbe fare un governo europeo con un'Europa federalista e che dica a tutti gli stati: signori miei, le leggi sono queste, per stare tutti quanti insieme, perché altrimenti l'euro sarà sempre debole. Poi un'altra cosa che volevo dire, avevi parlato degli anni 80 riguardo la politica economica italiana. Cioè, senza nostalgia, no, non ce l'ho neanche io sinceramente, nonostante fossi piccoletto, però sono andato a vedere un attimo sui libri e mi ricordo che negli anni 80 c'erano gli stessi amministratori politici dell'economia che ci sono adesso. Beh, insomma, no, negli anni 80, nel tempo della Prima Repubblica, non c'erano gli stessi governi di adesso, non c'è oggi il pentapartito, è cambiato un po' tutto, quindi no, da questo punto di vista no, si sbaglia e non è così. Intanto la borsa è passata in terreno positivo, la borsa di Milano, di frazioni di punto, vediamo se regge o se è pura volatilità, e allo stato attuale anche gli spread non stanno sfondando quota 400, vediamo come va la giornata. Sentiamo Giuseppe che chiama da Roma. Prego Giuseppe. Pronto? Prego Giuseppe, ci sente? Salve. Sì, sì, vi sento benissimo. Vada, dica. Senti, io volevo solo dire una cosa. Bisognerebbe fare un'analisi comparata in base alla spesa che questi paesi, diciamo, dell'area meridionale dell'Europa hanno nei confronti dei paesi forti. Cioè non è possibile che noi in Italia abbiamo 3 milioni e 8 di dipendenti pubblici su 58 milioni di abitanti, dove il rapporto in Germania e in Francia, in Olanda, è molto più basso. Cioè noi abbiamo praticamente un dipendente pubblico ogni 26 abitanti, che è un'enormità. Cioè dovremmo quantomeno portare questo rapporto allo stesso livello degli altri paesi ai quali noi oggi chiediamo un aiuto. Cioè quello che voglio dire io è che avere un'unica moneta in tutti questi paesi senza avere una omogeneità della spesa, dell'età pensionabile, del welfare comune, è chiaramente deleterio e in ogni caso avrebbe portato alla deriva e quindi al default e l'attacco speculativo su questi paesi. Voglio dire io che è normale che veniamo attaccati noi, perché al di là del grossissimo debito che ci abbiamo, non abbiamo una capacità di spesa, una potenzialità come paese che ci possiamo confrontare con gli altri paesi più forti. Questo è quello che volevo dire. Grazie Giuseppe. Eccoci tornati qui per la chiusura della trasmissione. Nel frattempo io non ho dato per scontato che voi conosceste che le posizioni assunte ieri avete sentito i giornali radio dalla presidente di Confindustria, ma Marcegaglia, che ieri al procedere della situazione ha iniziato a indurire il giudizio nei confronti del governo, ha parlato di intollerabilità di una condizione di stallo del governo e di necessità di una discontinuità. Di fronte a questa discontinuità, le reazioni immediate dei membri del governo sono state quelle di dire che Confindustria alimenta il nervosismo, insomma siamo alle soglie dal dire che chi denuncia l'insufficienza delle misure assunte tra luglio e agosto sia come sempre un traditore che cospira contro la buona immagine dell'Italia sui mercati, che è da sempre la maniera di reagire di chi non ha argomenti perché ha sbagliato, perché è la sua credibilità che non basta. Questa è la mia opinione netta. È evidente che le richieste della BCE, che erano per un intervento strutturale sui conti, e invece non si sono potute toccare la pensione di anzianità allineando anzianità e vecchiaia e andando molto più rapidamente ad accrescere il tetto, perché questa è una questione di divergenza dal resto dell'Europa ed è una questione anche di giustizia intergenerazionale. È evidente che nella manovra è mancato massicci dismissione di patrimonio immobiliare pubblico e quindi non si diminuisce lo stock di debito accumulato. È evidente che nella manovra non c'è un ripensamento fiscale tra imposte sul lavoro e sull'impresa che serve a battere per fare crescita rispetto invece all'IVA, che è stata utilizzata all'ultimo secondo e solo per un punto, e dopo enormi zigzag ed autoribaltamenti del governo è solo a copertura di spesa. Sbagliato, perché quello invece va fatto per riequilibrare prelievo e liberarlo sul lavoro e sull'impresa abbattendo il cuneo fiscale. E il fatto che mancassero tutte queste cose e che mancasse poi l'apertura del mercato che aumenta domanda e offerta con le liberalizzazioni e la concorrenza, come c'era stato puntualmente richiesto nella lettera che è rimasta ignota dalla BCE, tutto questo per settimane è stato ripetuto da questi microfoni. Non c'entra niente con una specie di complotto per abbattere la credibilità dell'Italia. Non è vero che di fronte ai giudizi del mercato bisogna adottare la vecchia tattica taci, il nemico ti ascolta, perché quella è una tattica da governo autoritario. I mercati sono l'esatto contrario e la credibilità sui mercati è più difficile di quella da conquistare in Parlamento. In Parlamento ci si compra i voti. Ecco, nei mercati è un po' più difficile, perché siccome la gente deve mettere mano con i propri soldi alla decisione di investimento, quando prende la via dell'exit è un po' più difficile e complicato convincerli. Quindi questo per dire che la posizione che sentite da questi microfoni non ha niente a che vedere con un calcolo politico, ma si preoccupa del valore degli asset patrimoniali in cui sono investiti i risparmi di tutti noi, siano sue famiglie, imprese eccetera, e tenta di evitare un abbattimento di valore come sarebbe quello di una sberla con l'Italia andasse incontro se facciamo la fine che abbiamo per troppo tempo raccontato di non poter fare. Sentiamo ancora Mariano che chiama da Torino. Prego Mariano. Sì, buongiorno, sono io in diretta. Sì, sì, dica. Sì. Io volevo solamente porre una questione molto pratica con la premessa fondamentale che comunque ritengo questa classe politica attualmente al governo assolutamente inadeguata per gestirla. Però la questione molto pratica che pongo è questa, ed è anche un quesito, ma perché non si prova a gestire, credo che di proposte su questo aspetto ce ne siano diverse in campo, non si prova a gestire una vera ristrutturazione del debito pubblico italiano, nel senso che al punto in cui siamo arrivati proprio come entità del debito pubblico italiano, io credo che noi possiamo in qualche maniera imporre anche le nostre condizioni, non possiamo farci strozzare da dei. Chiarissimo Mariano, lei dice poniamo mano a una ristrutturazione, a un intervento straordinario sul debito, il che significa chiediamo ai creditori per classi e per tipi, quindi non a quelli retailers, di assumersi la disponibilità ad assumersi dei rollover, cioè delle protrazioni di scadenza, delle compartecipazione dell'abbattimento di interessi fino ad arrivare a parte del patrimonio, perché traduco quello che lei ha chiesto significa questo. Professor Perotti, allora le hanno detto alcuni dei nostri ascoltatori, spieghi un po' meglio perché 1.500 miliardi e crede alla possibilità o all'opportunità di un riscadenzamento straordinario del nostro debito? 1.500 miliardi ovviamente è una stima spannometrica, ma l'idea più o meno è questa. quando l'Europa ha cercato di intervenire per la Grecia, essenzialmente l'idea era di darle abbastanza soldi per non dover ricorrere al mercato per i prossimi 3 o 4 anni, no? L'Italia, per dargli tempo per mettersi a posto, il debito che dovesse rinnovare glielo comprava l'Europa a tassi peraltro favorevoli. Se si dovesse fare una cosa simile per l'Italia, ripararla dal mercato, toglierla dal mercato per 3 o 4 anni, l'Italia ha una scadenza media del debito circa 6 anni e mezzo, quindi in media deve ricorrere al mercato per 350 miliardi all'anno, quindi in 4 anni fanno circa 1500 miliardi in più, però teniamo presente che insomma è difficile che i problemi, se vengono dei problemi, siano solo dell'Italia, probabilmente ci sarebbe un complessivo. Quindi a quel punto lì sarebbe anche più di 1500 miliardi. E crede il Portogallo, crede all'opportunità e alla fattibilità, senza troppi traumi che compromettano a quel punto definitivamente la permanenza nell'euro, di un programma straordinario di riscadenzamento del debito italiano? Beh, se ho ben capito, cioè, lo possiamo chiamare in tanti modi, ma insomma, se ho ben capito è una default. È un default pilotato, esattamente. Volevo che spiegasse che si tratta esattamente di quello, è come ammettere che non si è più in grado di far fronte ai propri oneri. Allora, vediamo oggi i mercati come vanno, ma non illudetevi. La politica italiana sa ciò di cui c'è bisogno. E se non adotta e segue la linea dell'onorevole Rosimauro, con tutto il rispetto, sulle pensioni, è inutile raccontarsi palle. Chi vi descrive gli scenari che si aprono lo fa perché, conoscendo i mercati, i numeri, come il professor Perotti e così via, o perché tenta di svolgere il suo mestiere molto più umilmente come noi, semplicemente vuole evitarvi di dire poi: se arrivasse la botta, non l'avevamo capito, non ce l'avevano detto, ma cos'è? Cosa sono sti speculatori? No! L'Italia ha delle colpe terribili e vi ha già chiesto pacchi di centinaia di miliardi di tasse in più e ve ne chiederà altri. E quella la strada? La mia risposta la conoscete. No, no e poi ancora no. Linea Generale Radio, appuntamento a domani.